Quindi, come promesso, andiamo a parlare un pochino di quella che sarà la diretta che faremo fra pochi minuti. L'idea ci è partita dal fatto che il Gabrio, come probabilmente molti e molti di voi sapranno, venerdì 13, quindi qualche giorno fa, ha fatto una serata benefit per la carovana per il Rojava e Palestina, in cui è stata invitata appunto Özlem, presidente dell'ufficio di informazione del Kurdistan in Italia, a presentare il libro Tutta la mia vita è stata una lotta di Sakin Kansiz. Appunto, il libro che parla in tre volumi di Sakin Kansiz come cofondatrice del movimento di liberazione curdo, e quindi appunto parla del suo impegno come combattente curdo, ma soprattutto come figura centrale in quella che è stata la rivoluzione delle donne, delle combattenti curde, e proprio al di là proprio della rivoluzione anche a livello di emancipazione intellettuale, anche all'interno proprio dello stesso nucleo di combattenti curdi. Quindi adesso vi mettiamo ancora un pezzo musicale, ci arriva intanto un cisti sul numero di cellulare, dice controllori sul 4 a Porta Palazzo, non sappiamo bene in che direzione, comunque fate occhio se siete da quelle parti e rimanete appunto sintonizzati che tra poco avremo questa diretta. Oh, Ed eccoci di nuovo in ascolto. Come promesso, adesso arriverà. Siamo in diretta telefonica con Rojin. Prima l'abbiamo presentata come Özlem, ma in realtà preferisce che venga utilizzato il suo nome curdo, che è appunto Rojin. Rojin, ci senti? Sì. Ok, perfetto. Allora iniziamo con le domande. Ciao Rogin, sono Camilla. E Ciao. appunto le domande che noi avevamo pensato come collettivo di Sguardi sui Generi sono appunto non domande sul libro, ma un po' in generale su quello che appunto è l'immagine che ci viene data del popolo curdo negli ultimi mesi. Quindi la prima domanda che volevamo farti è proprio su questa immagine che a noi viene data delle combattenti curde, che ci viene riportata sempre come un'immagine connessa con il campo di battaglia. Quindi donne combattenti, donne con le armi, donne che lottano contro l'ISIS. Però volevamo un po' sapere come si struttura invece la vita di comunità a livello quotidiano e quali sono le problematiche che hanno dovuto affrontare le donne in questi anni per riuscire a vivere proprio in queste comunità libere da un sistema patriarcale e sessista. Sì. Le donne curde stanno facendo una rivoluzione in tutti gli ambiti della società. È una rivoluzione che viene da lontano, viene dalla formazione del movimento delle donne curde in seno al movimento del Kurdistan. Grazie al movimento della liberazione del PKK, comunque, ha dato un ruolo molto principale alle donne. Le donne curde hanno avviato una ricerca, un studio su se stessa, come classe oppressa, trasversale, il che ha portato a organizzarsi autonomamente e poi anche nella società curda in generale. La vita sulle montagne, nelle città, è una vita comunque in comunitaria, nella quale si convive con tutte le compagne, è una vita in cui ciascuno condivide dai compiti organizzativi, tecniche. Inclusa anche le formazioni all'autodifesa e anche riflessioni nelle accademie, di formarsi dove sia necessario. Non ci sono le studentesse, insegnanti, non ci sono i professori come nel sistema capitalistica, perché ognuno ha un suo esperienza e le condivide, parla e racconta all'altro, e così in realtà si arriva al punto, all'esperienza giusta che è da fare per il futuro. Nella società, nella città, significa fondare le organizzazioni, perché comunque sono gli spazi dove comunque ci sono i simboli oppure le organizzazioni capitalistiche che da lottare. E per questo in realtà dove c'è un sistema patriarcale le donne si sono messe a lottare contro quel sistema statalistica, patriarcale, in ogni per superare tutta la violenza che subiscono in ogni momento della vita. Quindi oggi ci sono molte associazioni di donne che sostengono le vittime anche domestiche, violenze domestiche, offrono supporto concreto alle donne per evitare che oltre a subire violenza rimangano emergenti della società. In Rojava, infatti, abbiamo abolito la poligamia, che non è stato facile per le donne. Le donne intervengono direttamente nelle famiglie, anche stanno nella politica a decidere proprio le politiche delle regioni in quanto sono donne, sia per cambiare la mentalità patriarcale, che comunque Medio Oriente è un posto dove patriarcalismo è molto, molto più forte. Quindi voi avete visto le donne con le armi, avete un po' conosciuto così, però in realtà per arrivare a quel punto le donne curde hanno fatto tutto, si sono organizzati molto profondo anche tra la società, hanno fatto tantissime organizzazioni per dimostrare che il cambiamento oppure la libertà sociale passa dalla libertà delle donne, in realtà, la capacità creativa delle donne. Quindi se vuole lottare contro un sistema patriarcale, statale, oppressiva, che è violenta, che non riconosce nessun diritto di donne, donne kurde hanno lottato, hanno raggiunto l'obiettivo generale per cambiamento sociale. Sì, è proprio questo appunto che ci interessava un po' capire. Appunto un'organizzazione che parte sicuramente dal basso e che appunto non è solo di questi ultimi mesi, ma che ha visto un processo molto, molto lungo per arrivare fino qua. E invece l'altra domanda che volevamo farti riguarda la solidarietà internazionale nei confronti del popolo curdo. Infatti in questi mesi appunto abbiamo visto grandi e molte manifestazioni di solidarietà internazionale da tutto il mondo. Volevamo un po' sapere da te se effettivamente è riuscita a portare degli aiuti reali o ha rischiato talvolta di idealizzare la guerra, appunto la resistenza e la guerra combattuta contro l'ISIS, e se ci sono eventualmente delle aspettative verso queste pratiche di solidarietà. Sì, la solidarietà internazionale per i curdi è molto importante. Nella storia delle potenze internazionali hanno sempre giocato un ruolo contro i curdi, perché noi curdi diciamo non abbiamo nessuna, cioè prima dicevamo che non abbiamo amici, non abbiamo quelli che sono solidali. L'unico solidale con noi, con il popolo curdo, sono le montagne, dove i curdi si sentivano liberi. Ma fra i popoli si sono avuti spesso gli esempi di singoli organizzazioni che hanno sostenuto la lotta del popolo curdo, mettendosi in gioco anche in prima forza alla nostra idea di società e dei diritti. Mostra che come quello che stiamo cercando di fare in Medio Oriente ha un potenziale che è a livello internazionale anche. I movimenti sociali in Europa hanno mostrato sì di capire molto bene l'obiettivo che i curdi lottano contro, che era ISIS in Medio Oriente. Ma ISIS è in realtà un modello, un mostro contro di noi, un mostro come capitalismo, un mostro contro l'umanità. Quindi la lotta dei curdi era in realtà una lotta per tutta l'umanità, non solo per i curdi. Sì, erano curdi arabi, assiriani, armeni, donne, uomini che combattevano contro loro perché sentivano questa profondità di proteggere l'umanità, perché quel corpo che noi nominiamo ISIS è un nemico terribile che non si può neanche descrivere come si sente, ma è un nemico contro l'idea di società, è un nemico che vuole distruggere, dividere la società senza riconoscere il ruolo, è un nemico che non riconosce la donna, vende nei bazar come tempi passati che abbiamo superato. È una vergogna che oggi parliamo di delle donne vendute nel bazar secondo le loro età e i loro prezzi. Per questo la lotta dei curdi certo che è stata una lotta per tutti, è stato accolto anche cioè una solidarietà. Questo è molto importante, secondo me, da portare avanti questa capacità di proprio andare avanti insieme, di fare proprio di arrivare all'idea, arrivare all'obiettivo delle donne che non accettano come un oggetto sessuale oppure vendere nel bazar al fronte di questo totale embargo che è umanitario. Per questo chiediamo, se parliamo di una richiesta alle forze internazionali, a proprio spingere i loro governi, i loro amministratori che possano aiutare a dare un sostegno, a togliere l'embargo che adesso in Kurdistan esiste, un embargo totale, e aprire anche un corridoio umanitario che porta davvero i bisogni necessari ai civili e anche dare le cure ai feriti che ormai ancora continuano durante i scontri. È più importante invece di riconoscere proprio questo sistema che stanno cercando di costruire, perché non dimentichiamo, tutti questi attacchi in Medio Oriente ai curdi sono stati fatti perché i curdi purtroppo in Medio Oriente hanno dimostrato la loro volontà verso una società equa, una società democratica, una società che non divide i sessi, oppure dà l'importanza al ruolo delle donne, che veramente così si può portare a una società libera, democratica, che possono vivere insieme. Per questo non dimentichiamo che durante queste guerre che abbiamo vissuto ultimamente a Kobane ci sono centinaia di profughi che hanno dovuto lasciare il paese per non morire, oppure sono stati mandati via perché c'erano veramente pesanti scontri. Vi chiedo di andare a vedere quei campo profughi, che parlare con la gente, sentire la loro richiesta, che ogni giorno vogliono tornare a casa, ma una casa che non esiste più, perché ha avuto tantissimi dannaggi, per questo non trovano un posto dove fermarsi anche nel loro territorio. Per questo vi invito a partecipare nel vostro piccolo, o andare a vedere, a capire le loro richieste, a sentire dalla loro voce, oppure dare un piccolo sostegno dalla vostra tasca, che i bambini, le bambine e donne stanno aspettando di costruire la loro vita con il vostro sostegno. Tutto questo. La solidarietà è un simbolo, per i curdi è un simbolo indimenticabile. Ti ringrazio molto. Volevo chiederti se è possibile farti un'ultimissima domanda. Infatti saremmo molto interessate, dato che comunque la lotta del popolo curdo va avanti da ormai molti anni. La stessa Sakin Kansiz si è unita al movimento rivoluzionario curdo nel 1976, e volevamo appunto, eravamo interessate a capire questo progressivo inserimento delle donne per tentare appunto di creare una società paritaria che miri all'uguaglianza e che sia fondamentalmente democratica, e quindi appunto che si basi non più su questo binarismo di genere, ma che anzi dia lo stesso valore ad entrambi i sessi. Volevamo capire se da parte degli stessi compagni curdi inizialmente ci sono state delle resistenze, e come le avete superate come donne curde. La lotta è una cosa molto molto grande, non ha un limite, e quando parliamo della libertà, certo che quando le donne hanno cominciato a lottare insieme al movimento delle donne e al movimento della liberazione del Kurdistan, certo che pensavano di far parte, però dopo che hanno capito, perché comunque il sistema del movimento è un sistema educativo, è un sistema di formazione, autoformazione, di autocritica, che tu nonostante tutto ciò non riesci a fermarti in un punto, sempre hai un percorso di crescere, hai un percorso di analizzare secondo il luogo, oppure dove vivi, dove lotti, analizzi. Per questo è un concetto molto molto ampio, la libertà. quando tu hai un obiettivo molto lungo, molto grande, lotti per raggiungerli, così non finisce mai la tua lotta. Le donne curde, certo, anche dentro il movimento hanno naturalmente, perché comunque il maschilismo patriarcale è un sistema di 500.000 anni, per questo, 5.000 anni, per questo devi lottare. Non puoi cambiare in un giorno la mentalità delle persone, anche se hanno fatto una scelta. Però la fortuna del movimento che ha aiutato alle donne a lasciare lo spazio alle donne. Per esempio, non credo che da nessuna parte esiste una cosa che nel movimento curdo adesso c'è un sistema copresidenziale e i compagni maschi non possono decidere nulla neanche un singolo di combattente donne, però le donne possono decidere su tutto il movimento. Questo arrivare a raggiungere questo punto, certo che non è stato facile, ci ha voluto i danni, ci ha voluto il coraggio, centinaia di donne per dimostrare la loro volontà si sono dati davanti proprio per far vedere che le donne possono fare in realtà, possono cambiare, possono portare avanti la società. Per questo, per finire, dico, la lotta, la libertà, la democrazia per noi, l'uguaglianza, sono le parole che hanno diversi concetti molto importanti. Per questo, per arrivare a quei concetti, per capire proprio il senso della vita, il senso della libertà, il senso di vivere libero, la donna è principale. Per questo noi sempre abbiamo dato come slogan Jin Jiyan Azadi, perché in curdo la vita e la donna ha lo stesso significato come parola. Per questo la lotta delle donne è diventato anche un esempio profondo per tutte le lotte della libertà. D'accordo, Rogin. Allora ti ringraziamo davvero tanto per questo contributo che ci hai dato. Sappi che comunque, come in passato, anche in futuro noi dedicheremo molto spazio alla lotta del popolo curdo perché è assolutamente, insomma, un argomento che non può che essere di interesse in questo momento e molto importante soprattutto per noi come la radio stessa, come tutte le persone che l'abitano, avere insomma, un riscontro concreto di quella che è la rivoluzione, un metodo di una pratica rivoluzionaria e quindi, insomma, ti ringraziamo davvero molto per il tuo contributo. Grazie a voi. Ciao Regine, grazie. Ciao, Regine. ciao, ciao. Ricordiamo peraltro che appunto dalle 3:30 è in corso un'assemblea al CSO a Gabrio, un'assemblea antisessista che ha organizzato l'8 marzo della scorsa settimana, l'8 marzo in San Paolo, quindi appunto per chi volesse raggiungerlo è ancora sicuramente in tempo. Vi lasciamo con un po' di musica e ritorniamo tra poco. approfittiamo appunto dopo aver sentito Rojin per ricordare che ci sarà questa carovana per il Rojava che partirà nelle prossime settimane. E per portare appunto un aiuto concreto a cui parteciperanno diversi osservatori per vedere appunto quello che succede realmente. C'è un sito carovanaperirojava.noblogs.org dove si possono trovare tutte le informazioni. Insomma, adesso andremo a parlare di quello che della seconda assemblea nazionale verso la costruzione di un No Expo Pride che si è tenuto al centro sociale non so se si può dire allo spazio occupato dalle cagne sciolte a Roma in via Ostiense. E appunto andremo a parlare di quello che già in passato abbiamo condiviso come percorso, un percorso che si oppone a Expo 2015, che quest'anno ha come slogan Nutrire il pianeta, insomma una vetrina che mette in bella mostra un modello che in realtà è di sfruttamento e di devastazione dei territori. Infatti, cioè, questo è già palese dal momento in cui i sponsor ufficiali dell'Expo sono proprio McDonald's e Coca-Cola, no? Le cose più assurde possibili da immaginare come sponsor per un evento che porta questo nome. Sì, questa assemblea si è tenuta proprio quest'oggi, adesso stava per finire, non siamo riuscite a contattare personalmente le cagne di Roma, però cercheremo di farlo nella prossima trasmissione per farci dire un po' com'è andata queste assemblee. Sono volte all'organizzazione di diverse iniziative appunto concordate in diverse città per contrastare questo evento, quindi iniziative di avvicinamento all'evento stesso e anche durante appunto i giorni in cui si terrà. Nell'appello che appunto le cagne sciolte hanno diffuso nel loro blog, nel loro circuito di comunicazione, leggiamo quelle che sono le critiche che spesso vengono fatte ad Expo. Insomma, critiche che spesso vengono fatte vuol dire anche giustissime critiche, per cui che vede insomma la macchina dell'Expo come una macchina che poggia sul lavoro gratuito di moltissimi giovani. Ricordiamo il fatto che Expo era stato presentato come quella grande opera che doveva assicurare posti di lavoro proprio per i giovani precari e che poi alla fine è andata a finire in quanto 10.000 posti come Sì, volontari o una cosa una del cosa del genere. genere. Insomma, per poi utilizzare delle simpaticissime grafiche in cui dicono: vieni a fare il volontario ad Expo, incontrerai un sacco di nuovi 10 milioni di amici, Fa cose di questo curriculum, fa genere. Fa curriculum, ti servirà. curriculum, esatto. E questo in più avviene a Milano, una città che comunque è stata radicalmente trasformata negli ultimi anni da diversi progetti di speculazione, di cui Expo alla fin fine è solamente l'ultimo dalle imponenti opere costruite anche proprio al fine del grande evento, metri cubi di cemento che non si riesce proprio a capire come possano andare di pari passo con quello che dovrebbe essere un po' il fine, no, del nutrire il pianeta, che qualcuno si immagina possa avere a che fare anche con l'ecologia, però metri cubi di cemento non so bene come possono andare d'accordo con una proposta ecologista o cose di questo genere, ma allo stesso tempo anche richieste di sgomberi, di sfratti, di demolizioni, rettate ed espulsioni, perché chiaramente nel momento in cui un evento internazionale, i centri sociali, i movimenti che si oppongono alle scelte dello Stato e di chi sta a potere, chiaramente non vanno bene, non fanno fare bella figura. E invece piuttosto si costruisce la bella via rosa dello shopping per poter attingere un bacino di mercato che è rappresentato dalla popolazione soprattutto gay, maschile, di ceto medio-alto, borghese, che quindi si può permettere la via dello shopping firmato insieme ai ristoranti di lusso, magari vegan, eco-friendly e cose di questo genere. Per far sembrare lo Stato italiano come uno Stato, anzi, maggiormente aperto riguardo a cose di questo genere, cioè riguardo ad esempio a tematiche LGBT, quando in realtà è chiaramente solamente un pretesto per strumentalizzare, per fare mercato anche su persone che chiaramente non vogliono essere mercificate in questa maniera. Sì, ma esatto, è la vecchia e buona pratica del pinkwashing, se da una parte ci sono tutta una serie di soggettività che questo evento vuole includere, vuole parlare, queste soggettività, ce n'è un'altra grande fetta che viene automaticamente esclusa e a cui vengono negati anche i diritti principali. insomma, per chi desidera informarsi ulteriormente su questi temi, rimandiamo a quelle che sono le pagine Facebook delle organizzatrici e degli organizzatori di queste manifestazioni contrarie all'Expo. Una di queste è We Women for l'Expo e l'altra invece è No Expo Pride. Lì potrete seguire quelle che saranno le possibili prossime assemblee nazionali in vista di quello che, ricordo a tutti, sarà il giorno d'apertura dell'Expo 2015, che ricordiamo essere il 1° maggio, come se non bastasse. E quindi appunto vi diciamo di rimanere sintonizzati su queste pagine Facebook se interessati alle varie informazioni. Invece per il sito noexpopride.noblogs.org, il sito delle cagne invece cagnesciolte.noblogs.org, comunque questo appello è stato diffuso anche da diversi altri siti come Zero Violenza, quindi appunto è facile da trovare.